Buonasera e ben ritrovati in questa prima puntata del 2019 a Mighty FM, che vi parla sempre Claudia Mighty Mau dagli studi di Radio Città Fujiko. Abbiamo deciso di iniziare questo anno, ma siamo sempre nel corso della decima stagione, con un disco ovviamente ancora del 2018. Ecco, non è che adesso in questi 10 giorni siano usciti già dei dischi nuovi che abbiamo avuto il tempo di studiare o che meglio ci piacciono, ci sono piaciuti abbastanza da pensare di dedicare una trasmissione. Quindi siamo andati a vedere i dischi che sono usciti nell'ultimo scampolo del 2018 e abbiamo trovato una vecchia conoscenza, un nome di nicchia, diciamo forse un po' troppo sofisticato, forse un po' troppo non lo so, insomma forse non ho mai fatto il botto, insomma uno di quei piccoli segreti deliziosi. Si tratta di My Brightest Diamond, cioè il mio diamante più splendente. È così che ha voluto definire il suo dono al mondo, ovvero la sua musica, Shara Worden, che attualmente ha cambiato nome e si chiama Shara Nova, una artista veramente poliedrica e molto versatile e che unisce, diciamo, musica bassa a musica alta, unendo un'attività da cantautrice anche ad un'attività di compositrice di musica classica e anche di voce, in quanto ha studiato opera lirica, né, ovvero canto lirico. Ne parleremo in queste prossime quasi due ore. Iniziamo appunto sentendo il pezzo di apertura di A Million and One, quinto album di My Brightest Diamond, uscito il 23 novembre. È un po' una canzone manifesto, si tratta di It's Me on the Dance Floor. I'm looking out, figure it out. I'm looking out for someone to see and someone to be seen. But maybe it's me, it's me I'm looking for. It's me, it's me on the dance floor. It's me, it's me I've been looking for. It's me, it's me on the dance floor. That's right. I've been going out. Abbiamo detto un'autrice molto molto versatile, Shara Worden, ovvero no, non chiamiamola più così, adesso si chiama Shara Nova, come appunto una scelta di rinnovamento, come lo è anche questo album, A Million and One. Presa di coscienza che forse bisogna distogliere sempre l'attenzione dagli altri e cercare se stessi. E forse si è ritrovata sul dance floor. Per chi non la conosce, appunto abbiamo scritto che questo è un disco molto più electro, molto più synth pop, per una produzione che invece parte con delle basi classiche più o meno accentuate nel corso degli album precedenti. Ci stavo cercando qualcuno che potesse vedermi. Forse sei tu. O invece, magari, sono io. Sono io quella che sto cercando. It's me on the dance floor. questo effetto su questo pezzo, mi piace molto di questo pezzo che è anticipato di un giorno l'uscita del disco, ovvero insomma il video. È stato pubblicato, diffuso, dico io, a dicembre, un remix, il Kethu Remix, che aumenta i BPM dai 117 morbidi di questo pezzo ai 125, un remix tech house, ma ci piace molto di più l'originale. La carriera di Shara Nova. Inizia già dalla fine degli anni 90. Nasce nel 74 a El Dorado, nell'Arkansas. In una famiglia di musicisti, suo padre è un suonatore di fisarmonica e direttore di coro, la madre è un organista nella loro chiesa di fede pentecostale. Tra l'altro il primo ricordo di infanzia di Shara è la mamma che suona l'organo in qualche evento speciale, in qualche aula forse dell'università. Questo pezzo che stiamo ascoltando è del primo gruppo che ha messo su con un altro musicista, il chitarrista Shane Yarborough. Si trattava degli Ori, AWRY. Questo suono un po'... sì, questi dischi sono usciti all'inizio di questo secolo e millennio, ma suonano ancora estremamente 90s. A me mi ricorda un po' Alanis Morissette, un po' i Soundgarden. Dicevamo musica in famiglia, fin da piccola lo zio, pianista classico e jazz, arrangiatore, le insegna a suonare il piano da bambina, poi un'infanzia in diversi posti, tanti trasferimenti con la famiglia con periodi più lunghi vissuti in Oklahoma e poi a Ypsilanti nel Michigan, a circa 60 km da Detroit. E chissà se appunto questo trasferirsi in Michigan sia stata una premonizione della futura collaborazione con Sufjan, che invece incontrerà diversi anni dopo a New York. Insomma, era una citazione del pezzo dell'album Michigan, nel cui tour, insomma, lei, al cui tour lei partecipa come corista. La canzone di Michigan che era For the Windows in Paradise, For the Fatherless in Ypsilanti, perché parleremo anche tanto del nostro Sufiano, in quanto la carriera di Shara si cresce, prospera anche grazie al fatto che entra nella famiglia della Asthmatic Kitty, l'etichetta fondata da Sufjan, dal suo papà adottivo, diciamo, Lowell. Dicevamo lo studio in canto lirico, in realtà la laurea in vocal performance alla University del North Texas di Denton. Circa alla fine degli anni 90 passa un anno a Mosca, dove inizia a comporre canzoni e produce anche un EP, Session One. In realtà poi nel 98 fa anche un album a nome Shara che si chiama World, di cui non esiste traccia. Poi torna negli Stati Uniti, si trasferisce a New York dove continua gli studi di canto lirico e poi torna a Detroit dove vive tuttora, e poi appunto sempre intorno al 97 deve essere, insomma, l'anno in cui si sposa, e quindi acquisisce il cognome di suo marito Warden, ed è così che in questi ultimi quindicina d'anni e più è stata conosciuta, si è presentata, è stata conosciuta. E prima invece della nascita del progetto My Brother's Diamond, con questa band Ori, qui stiamo ascoltando un pezzo che si chiama Leviathan, fanno due album quello da cui è tratto questo pezzo, l'album omonimo detto anche The Orange Album, e un altro, il Quiet Besides, ma si sciolgono subito dopo. Gli anni successivi, 2002-2003, comincia a scrivere musica per una messa in scena teatrale dell'opera Treblinka di Adam Rapp, drammaturgo, scrittore, sceneggiatore, anche consulente per The L Word, non lo sapevo, e anche di un'altra opera teatrale, Mort sans sépulture di Sartre, e inizia appunto anche lo studio di composizione. E poi arriva nel 2006 il primo album, Bring Me the Workhorse. Don't be too surprised. Molto bello, e tra le varie molto belle canzoni c'è anche questa bellissima, Disappear. Pezzo, sarete d'accordo con me, di Sapier, poi compare anche in un EP dallo stesso titolo, dove c'è anche un paio di remix molto belli, uno d'opera di Stacca e un altro d'opera di James McAllister, e lo abbiamo unito alla versione originale. Pezzo il cui ascolto, l'ho anche scritto, mi ha procurato insomma delle emozioni piuttosto forti. Elementi del remix, come questo piccolo riff di chitarra. Don't Be Too Surprised. Si sente comunque che siamo nell'orbita di Sufjan Stevens, James McAllister, percussionista, batterista. Ha partecipato a diversi progetti Sufjan Stevens. Dicevamo appunto dell'incontro con Sufjan nel 2004, va in tour appunto per il tour di Michigan e quindi entra nella famiglia della Smart Kitty e questo primo album, Bring Me the Workhorse, esce nel 2006. In realtà dopo il tour nel 2005 lei si mette a comporre in realtà due album e il primo che esce è appunto Bring Me the Workhorse, con pezzi indie più tradizionali, un po' già di sperimentazione, di archi, di arrangiamenti barocchi, un po' da melodramma, insomma, soprattutto gli ultimi pezzi dell'album. Ma noi stiamo parlando del quinto album, uscito a fine novembre 2018, e questo è il secondo pezzo, Rising Star. Pur mantenendo insomma il suo tocco, arrangiamenti molto complessi. Veramente spunti creativi molto originali. Forse questo album è il più normale, tra virgolette. Fail. Think it, you make it, you dream and awake yet. Think it, you make it, now you won't prevail. In questo pezzo Shara, insomma, diciamo, trionfa sopra l'avversità della serie. Pensavo di essere, insomma, quasi sconfitta, spacciata. Questo pezzo dove nomina qua e là, mettendolo appunto come parole nei versi, comunque parole che sono anche titoli dei suoi pezzi, come Pressure o Dreaming Awake. Beacon of light you see in the night. That's me, I'm rising up from nowhere. E quindi parla insomma delle fatiche, insomma, che sono venute con la sua carriera, la sua creatività. C'è però soprattutto questo, io insomma emergo come un raggio di luce che vedi nella notte, sono io che risorgo, mi alzo dalla disperazione, quindi proprio una canzone di grande self-training, di grande autoincoraggiamento. Dicevamo, James McAllister, collaboratore di Sufjan Stevens, e poi Secondo me, anche in seguito ad un lavoro che hanno fatto insieme, che citeremo più tardi, gli altri musicisti della banda, è nato questo progetto, ovvero Sufjan Stevens, Bryce Dessner, uno dei due gemelli chitarristi dei National, Nico Muley, anche lui compositore e pianista, James McAllister, concepiscono questo bellissimo progetto Planetarium. E non è un segreto per nessuno, per chi ci conosce, che la nostra canzone preferita è sempre stata questa, Saturn. Of children, a cannibal addiction. Innocent victim, bite mark, body part. When in secret, each week we met. Tell me I'm evil, a Capricorn creature. Dicevamo, James McAllister, collaboratore di Sufjan Stevens in progetti come The BQE, che ho scoperto oggi di avere il CD e il DVD. Non mi ricordavo più. E poi nel 2017 è arrivato questo progetto sul Sistema Solare, dove ogni pezzo ha il nome di un corpo celeste. Per chiudere il discorso sul primo album di Sharanova, Bring Me the Workhorse, come col nome di My Brother's Diamond, visto che comunque la puntata è dedicata a lei, pezzi molto belli sono Dragonfly, Freak Out, ho scritto Noise Blues Alt Rock alla Sonic Youth. In generale già emerge quel lato teatrale performativo che spazia dal vaudeville al melodramma alla performance / installazione d'avanguardia. E poi c'è anche il pezzo di chiusura per Workhorse, melodramma più sperimentale uguale classica contemporanea sincopata, e di questo album l'anno dopo esce comunque tutta un album di remixes che ha dal titolo Tear It Down. E nel 2007, dopo essere stata anche parte degli Illinois Makers, ovvero della la band di Sufjan Stevens, appunto per Illinois, tra l'altro curioso, nel momento in cui esce Shara dalla touring band ci entra Annie Clark, che aveva appena lasciato i Polyphonic Spree, detti Psychopathic Spree da noi. Se li ricorda, sono stati un po' una meteora meno una decina d'anni fa. Nel 2007, dicevamo, va in tour di supporto ai Decemberists e partecipa appunto alla compilation di Stereogam che fa per come tributo al decennale di OK Computer, e qui a lei spetta l'interpretazione di Lucky. Standing on the edge. Un album tributo per il decennale di OK Computer, che vede dei nomi veramente molto molto alternativi e molto indie, ovvero molto sconosciuti, a parte Vampire Weekend, che interpretano invece Exit Music for Film. E dicevamo che appunto tra il tour con Sufjan nel 2004 e il debutto nel 2006 come My Brightest Diamond, nel 2005 Shara lavora a due album. Uno, appunto, Bring Me the Workhorse, e il secondo invece era composto da canzoni accompagnate solo da un quartetto d'archi. Nell'intenzione iniziale poi non è stato così, che uscirà invece nel 2008 col titolo di A Thousand Shark's Teeth. È accompagnato anche da un altro EP, cioè molto molto prolifica. Un singolo EP di un pezzo contenuto in A Thousand Shark's Teeth, Inside a Boy. Questa chitarra mi ricorda un po' i Radiohead, la fuzz chitarra di pezzi come Myxomatosis e pochi altri. E l'EP Inside a Boy contiene un remix di Son Lux, con cui appunto nasce un sodalizio continuo negli anni, fatto di remix, partecipazione a rispettivi progetti, eccetera. Tra l'altro di questo album sono usciti 4 EP, Shark Remixes, nel tempo, e poi nel 2009-2010 tutti insieme, ed un EP di remix proprio solo a cura di Son Lux, tutto ciò nella persona di Ryan Lott, dato che il progetto era un progetto individuale che è diventato un trio solo nel 2015, ancora Radiohead. Quindi, come nell'altro caso, abbiamo deciso di attaccare, sovrapporre. Abbiamo giocato un po' con i mix di questa trasmissione. Sono venute fuori, buona la prima, sono venute fuori delle belle cose. Abbiamo appunto voluto attaccare In Sara Boy, Son Lux Remix. Nell'ambito già del suono ipercinetico e teso di Son Lux, questi archi taglienti. In his arms, I'm on one. Questo è il remix di Ryan Lott di In Sarah Boy, tratto dal secondo album a nome My Brother's Diamond, A Thousand Shark's Teeth, del 2008, ma noi siamo qui per parlare del quinto album, uscito il 23 novembre, e dopo appunto tutta la carriera con la Smatic Kitty, questo disco invece esce per la Rhyme and Reason Records, ma sicuramente c'è un perché, lo diremo. Intanto ci ascoltiamo un altro pezzo tratto da quest'album, ovvero Another Chance. Curiosità, in realtà questo pezzo è uscito come B-side di un altro pezzo dell'album che ascolteremo dopo, in un 7 pollici a edizione limitata in 500 copie, uscito ancora all'inizio di quest'anno per la Asthmatic Kitty. If I get another chance at love, if I get another chance. Questo infatti non ha mai fatto una canzoncina così banale, oserei dire. Una canzone sulla speranza, di avere un altro amore, come si comporterebbe nel caso, perché questo disco molto catartico. Infatti non a caso, insomma, il dance floor, insomma, un po' una metafora, no? Dello sfogo. Racconta anche, insomma, il momento della vita di Shara Nova. Every love I had, I bless you. Che nel 2016 ha divorziato suo marito. Lei dice: sono stata sposata la maggior parte della mia vita adulta, per 19 anni, dai 23. E nel momento del divorzio, appunto, cambia nome ufficialmente, il suo cognome diventa Nova. Proprio anche questo, uno statement. Poi però arrivano sempre questi particolari sonici. If I get another chance at love, if I get another chance, my kisses will be never. Tutto quello che ho fatto, ogni luogo in cui sono stata, mi hanno portato dove sono ora e non ho nessun rimpianto. My love. sarà Another Chance, per un album A Million and One prodotto da Sharanova con additional production sulle singole tracce da parte di diversi musicisti più o meno vecchi collaboratori o nuovi. Ma per il resto noi seguiamo appunto sempre la carriera, cerchiamo di seguirla in ordine cronologico, ma autistico. E nel 2008 partecipa ancora ad una compilation tributo, Goodbye Association Volume 2, Contented Love di Gloria Jones / Soft Cell, che insomma non ci è piaciuta tantissimissimo. Ma nello stesso anno viene anche chiamata per partecipare alla compilation di Mojo Magazine, The White Album Recovered Volume 2, tributo ai Beatles ovviamente. Per la quale lei appunto reinventa Everybody's Got Something to Hide Except Me and My Monkey. E anche se poi negli album successivi lei prediligerà gli arrangiamenti orchestrali proprio barocchi, pop barocco, chamber pop, lei, multistrumentista autodidatta in gran parte, suona anche molto la chitarra e la chitarra elettrica, insieme al pianoforte, l'ukulele e la mbira, che è una variante della kalimba, ovvero quegli strumentini, quel pezzo di legno con le lamelle di metallo che si suonano generalmente con i pollici. Cioè, generalmente sì. Dicevo, le pubblicazioni, singoli, EP, remix, album sono veramente numerose, oltre alle partecipazioni in queste varie compilation. Do you love the monkey or do you love it? Do you love, do you love, do you love me? Bye. E in tutte queste pubblicazioni, una sì, una no, c'è sempre Son Lux. Son Lux, dopo loro diranno Son Lux. Give us one or two whispers. Then give us four. Is this the future? Standing over me. E stiamo ascoltando il bellissimo pezzo d'apertura 40 Screams di Brighter Wounds del 2018. Nella trasmissione dedicata a Sexto Unplugged abbiamo ascoltato altri tre pezzi da quest'album, Labor, All Directions e Surrounded. Perché? Perché appunto l'abbiamo vista, Sexto Unplugged quest'estate diluviava Infatti dopo di loro doveva esserci Panto de Prince, che hanno annullato. Purtroppo il concerto è stato bellissimo, tra l'altro nello stesso festival, rassegna, nello stesso magico posto dove abbiamo visto dal vivo lei stessa, My Brother's Diamond, nel 2012. Son Lux nasce proprio nel 2008, ruotano intorno a My Brother's Diamond un sacco di musicisti che sono cresciuti musicalmente insieme, collaborando in continuazione. Post-rock, elettronica, sperimentale, dicevamo, dal 2015 si è sviluppato in trio insieme ai bravissimi Rafik Bhatia e Ian Cheng. Andando avanti, parlando nella carriera di Shara Nova, My Brother's Diamond, e siamo arrivati al 2009, anche lei partecipa nella compilation che noi negli anni abbiamo saccheggiato. Penso che sia la compilation più bella che sia mai stata fatta. Drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Yeah, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. La compilation capolavoro è Dark Was the Night. Fish in the sea, you know what I mean. Red Hot Organization, una organizzazione che si batteva per la presa di coscienza, l'informazione, la prevenzione relativa all'HIV AIDS e pubblicata dalla 4AD. E tantissime volte abbiamo preso dei pezzi e in questo caso Shara Worden viene chiamata per non si sa chi è che sceglie quale cover fare, insomma, Feeling Good. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world, and I'm feeling good. Pezzo portato al successo da Nina Simone, rifatto da tantissimi altri artisti, E quando faccio le trasmissioni appunto scopro anche la storia di questi pezzi, che molte volte appunto sono degli standard vecchi o comunque degli adattamenti. In questo caso il pezzo scritto dai compositori inglesi Anthony Newley e Leslie Bricusse viene da un musical, prima nel Regno Unito e poi portato a Broadway, e quello stesso anno 1965 lo registra Nina Simone per il suo album I Put a Spell on You. E tra l'altro questo pezzo è anche un bellissimo radio spot di Radio Kairos. Torniamo a Million and One con Champagne, quarto pezzo dell'album, ed era questo il singolo 7 pollici pubblicato, l'ultima pubblicazione della Smart Kitty in formato 45 giri insieme a Another Chance. Poi è stato pubblicato all'inizio di aprile, a fine aprile, un EP, Champagne EP. Personne paraît ce qui arrive. Je ne peux pas aller à mi-chemin, je ne vais pas m'arrêter. Oui, j'y vais. Che conteneva appunto una versione francese, Champagne. Oui, j'y vais. E che ci ricorda, ci riporta molto a Christine and the Queens. J'ai gardé ma jalousie, je ne l'ai jamais révélée. Je t'en ai voulu de me rabaisser, de m'abaisser. Mais je sais flotter dans la gravité. À la fin, les reproches sont pour moi. Je suis légère comme l'air et je laisse. E in questo caso abbiamo deciso di mixare la versione francese con la versione originale che poi è nell'album. E siamo passati appunto alla versione dell'album, versione inglese, dove appunto lei si definisce come lo champagne, le cui bolle, insomma, quando vanno su non le si può fermare. Poi in risposta ad un, non so, amico o amica, l'ex marito, chissà, che ha fatto di tutto per buttarla giù, per parlarne male, per scoraggiarla, ma invece lei no. Cioè sarò più leggera dell'aria perché so come galleggiare, come levitare. Quindi anche questo è un altro pezzo di empowerment. E nell'EP esistono anche due remix di questo pezzo. e un altro pezzo sempre dell'album che ascolteremo tra poco. Ma ci sta bene. E sono arrivata al 2009, quando partecipa a Dark Was the Night e pubblica un altro EP, From the Top of the World. 4 pezzi, la title track è veramente bella, bella, bella, bella, bella, bella. E tratta ancora da A Thousand Shark's Teeth, unite a 3 cover particolari: Yucali Tango Habanera di Kurt Weill, pezzo del 34 da me conosciuto nell'interpretazione di Ute Lemper, e 2 chansons d'Edith Piaf, Hymne à l'amour e Adieu mon cœur. Ma chi stiamo ascoltando? I Decemberists, perché dopo appunto aver fatto tour insieme, Colin Meloy chiama Shara per interpretare The Queen, la regina, in The Hazards of Love, quinto album dei Decemberists, concepito come una rock opera, dove la protagonista Margaret è la voce di Becky Stark di Lavender Diamond, che si innamora di William, ovviamente interpretato da Colin Meloy, un mutaforma che vive in una foresta boreale la cui madre, The Forest Queen, ovviamente cattiva, è Shara Warden all'epoca. E infatti nella puntata dedicata ai Decemberists nel 2015 abbiamo ascoltato un pezzo appunto tratto da The Hazards of Love, seguito poi da 2 pezzi di My Brother's Diamond, di quello che era l'ultimo disco di allora, che ascolteremo più tardi. E anche questo pezzo, Severed, è stato il pezzo di anticipazione dell'ultimo album del 2018, The Decemberists, I'll Be Your Girl. Che loro non hanno mai fatto un pezzo così elettronico. Adesso siamo arrivati a quello cosiddetto centerpiece dell'album, diciamo il pezzo più forte. Si chiama You Wanna See My Teeth? Vuoi che ti mostri i denti? Questo è anche un pezzo a cui dà molta evidenza anche la recensione di Pitchfork, dove appunto si dice che, come abbiamo scritto, l'album A Million and One trae anche ispirazione dalla propria città, Detroit. dalla musica che ascoltava Sciala da adolescente, le varie radio cittadine. E quindi appunto la città della techno. Ma in questo caso si sposta in Florida, dove si mette nei panni di Trayvon Martin, una delle prime vittime della police brutality contro i giovani di colore. You wanna see my teeth, I'm gonna show ya. Dove dice: ho sul cappuccio, dalle cuffie, sto sentendo la musica, la mia musica. Ehi ragazzo, dove stai andando? E le sirene. Vuoi vedere i miei denti? Ti faccio vedere. Ma uno dei primi casi, insomma, che hanno avuto più rilevanza è che poi appunto l'aumentare di questi sfortunati incidenti tra virgolette hanno portato al movimento Black Lives Matter. Quindi questo pezzo esprime appunto sentimenti di rabbia, a parte appunto le vicende personali della vita di Sciala e la scelta di dargli questo vestito musicale più synth pop, più elettronico. C'è anche appunto uno sguardo sull'America contemporanea, sulla sua città, una lettera d'amore alla propria città che sappiamo essere in terribile declino per, diciamo, la fine dell'era dell'automobile, così come l'avevo conosciuta. Respiro profondo, siamo arrivati più o meno per il resto al 2010 e anche Sciala viene chiamata per partecipare a questo folle progetto, un concept album, un rock musical concepito da David Byrne e Fatboy Slim, Here Lies Love. E infatti stiamo sentendo la voce di David Byrne in questo pezzo Seven Years, che è un duetto. In realtà anche noi la puntata dedicata a Florence and the Machine ascoltammo la title track, il primo pezzo interpretato appunto da Florence Welch. La cosa abbastanza assurda è il soggetto, perché è un'opera sulla vita di Imelda Marcos, la famosa ex first lady delle Filippine, famosa per avere migliaia di paia di scarpe, e la sua storia è la storia della donna che l'aveva cresciuta, Estrella Cumpas, e segue appunto tutte le vicende di Imelda Marcos fino appunto all'esilio forzato. Ma in, oltre a Shara, eccola, c'è Sam Vincent, Tori Amos, Martha Wainwright, Cyndi Lauper, Roisin Murphy, Katie Pearson, B-52s, Sia, Santi Gold, Natalie Merchant. Una follia. Prima o poi lo ascolterò tutto. I beg to God. Insomma, vabbè, la citazione, siccome era un pezzo molto lungo, l'abbiamo più o meno tagliato a metà. E adesso passiamo all'album, invece il terzo album uscito nel 2011, All Things Will Unwind. Sempre per la Smati Kitty, e ci tengo veramente tanto a dire da dove viene questo nome. Dicevamo appunto, etichetta fondata nel 99 da Sufjan Stevens e Lowell Brahms, e prende il nome da Sara, una gatta randagia con l'asma felino che è stata adottata da Lowell nel 94 e che a partire dal 2002 ha vissuto a Lander nel Wyoming, a un'altezza di 1600 metri, dove quindi l'aria più rarefatta così alleviava i suoi sintomi di asma, e quindi ha vissuto bella, felice e contenta fino al 2008, quindi fino a 15-16 anni. E uno dei pezzi, diciamo, il singolo principale, abbiamo anche postato il video in cui questo pezzo viene eseguito con tutto l'ensemble, il Y Music Ensemble, questo sestetto di archi e fiati con cui ha suonato questo disco, è Be Brave. Be brave, dear one, be in change to be undone. Be brave, dear one, be in change. È stato quindi questo il disco con cui l'abbiamo conosciuta, infatti poi è venuta in tour con questo disco poi in estate 2012, accompagnata appunto dal suo sua piccola orchestra, un concerto molto bello, tra l'altro anche impreziosito dalla partecipazione con il coro locale del festival, che adesso non c'è più. Shara, now get to work. Shara, this is going to hurt. Be brave, dear one. Be in change to be undone. Be brave, dear one. Be in change to be undone. Un album ancora più chamber pop, baroque pop, sofisticato, orchestrale, curatissimo. È molto teatrale, come anche la sua veste in scena, piume, costumi, cilindri. E il singolo di Be Brave era accompagnato da due remix, uno dei quali ad opera di Profuse 73, ovvero Guillermo Scott Herren, persona deliziosa con cui abbiamo potuto fare delle chiacchierate molto serie, viaggio dall'hotel all'aeroporto per Robot di qualche anno fa. E quindi ancora una volta abbiamo attaccato sto remix. Erano fatti, insomma, siamo scambiati il favore, perché proprio nel disco di quell'anno di Prefuse 73, Only She Chapters, Shara ha cantato nel pezzo The Only Hand to Hold. Ma torniamo a A Million and One con A Million Pearls, appunto l'altro pezzo dell'album contenuto in Champagne EP. Try to tell you what I can do, but you won't believe what you cannot see. Oh well, oh well, oh well. Oh well, oh well, oh well. Times it was said, you can't. Grazie tutte le volte in cui è stato detto non puoi, e invece io l'ho fatto, lo faccio. Well, I did. E grazie anche, un applauso a tutti quelli che dicevano ci sono milioni di perle esattamente come te. Adesso che fine hanno fatto? There's a million pearls just like you. E appunto le emozioni anche espresse a questo album, la rabbia, il dolore senz'altro, però anche un po' molto la rivincita e la resolution, decidere e fare nuovi propositi. Disgrace, will you still display distaste if I bear to you my, will it mean anything to you at all when I offer up my mouth, how you spit me out till I learn to be proud on an ocean. E questo è uno dei pezzi, ce ne sono diversi nell'album, che vedono l'additional production di The Twilight Tone, pseudonimo di Anthony Christopher Kahn, produttore, compositore, DJ e radio host. Il termine perla, che quest'anno è ritornato diverse volte, A Pearl, un pezzo di Mitski, Oil of Every Person Insights di Sophie. Altro sospiro. Just your anointing oils, just your name, just your chambers, just your love, and my mother's sons, and my own vineyard, and my soul, just your flock. Just your companions, just your kids. E stiamo ascoltando. Just your cheeks, just your neck. Just After Song of Songs, eseguito dal trio Medieval o Medieval, ovvero Agnes Westermann, Garth Knox e Sylvain Lemaître, per una composizione a firma di David Lang per la colonna sonora di Youth di Paolo Sorrentino. Just your eyes. Pezzo poi anche ripreso dagli XX. E perché ascoltiamo David Lang? Perché appunto abbiamo detto di come Shara abbia fatto tante collaborazioni, anche un'attività come compositrice lei stessa, e una delle collaborazioni appunto è stata con David Lang per un'opera commissionata dalla Carnegie Hall nel 2012. L'opera si chiamava Death Speaks, dove il ruolo della morte era proprio quello di Shara. E tra i musicisti che hanno suonato per quest'opera c'erano anche Bryce Dessner alla chitarra, Nico Muri al piano e Owen Pallett al violino e voce, quindi forse anche da qui è nata poi anche la collaborazione tra alcuni di questi musicisti che poi è sfociata nel progetto Planetarium, chissà. A me non mi ha stupito, non lo sapevo, perché comunque è stata una grave trascuratezza, insomma, sì, conoscevo My Brother's Diamond, ma mai frequentata più di tanto. Però non mi ha stupito più di tanto scoprire che poi faceva parte di questo giro qua. Il pezzo, questo è bellissimo, è molto molto molto lungo. Ascoltiamo più o meno un terzo per questa colonna sonora bellissima. È vero, ci sono partecipazioni anche di altri cantanti e musicisti, però diciamo il grosso della musica medievale è medievale originale a cura di David Lang, soprattutto poi Simple Song Number 3, che era stata anche nominata a Oscar e Golden Globes, mentre in Italia sì, sia la canzone che la colonna sonora hanno vinto il David di Donatello. And my beloved, and my bed, and my soul, and my soul, and my soul, and my soul, and my mother's house. Diciamo ancora qualche cosa su All Things Will Unwind del 2011, appunto un album più orchestrale, teatrale. Il titolo del disco, Tutto si disferà, da una conversazione che Shara ha avuto con un amico sul sole che si sta esaurendo. Like a night from some old fashioned. Poi abbiamo omesso di dire che poi nel 2010 Shara partecipa a The Age of Odds di Sufjan, in cui canta una parte, proprio qualche minuto, di Impossible Souls, che ne dura più di 25, e cori, anche St. Vincent. E io mi chiedo, si conoscono, sono amiche, si odiano, sono indifferenti? Poi c'è l'ultimo pezzo di All Things Will Unwind, che si chiama I've Never Loved Someone The Way I Love You, che parla di Al, figlio Constantin Jameson, a cui è dedicato l'album, che nasce nel 2010. E questo pezzo, I've Never Loved Someone The Way I Love You, esce poi in 7 pollici edizione limitata per il Record Store Day nell'aprile 2012. e la B-side, questa bellissima cover di Bird on a Wire di Leonard Cohen. Still born like a beast with his horn, I have torn everyone who reached out. But I swear by this song and by all that I have done wrong, I will make it all up to thee. I saw a beggar una cover che tra l'altro era già stata pubblicata il mese prima come bonus track nella compilation sempre di Mojo Magazine intitolata The Songs of Leonard Cohen Covered. È veramente un rifacimento molto bello a firma non solo di My Brother's Diamond ma di Mark Ribot, grande musicista, chitarrista, suonato nei dischi di Sylvian, Capossela, Arto Lindsay, Elvis Costello, soprattutto Marianne Faithfull, John Zorn, ma soprattutto tutto Tom Waits. Anzi, proprio il responsabile della nuova direzione musicale che prese la musica di Tom Waits a metà degli anni Ottanta. Like a drum in a midnight choir. Con Rain Dogs in my way to be free. Volevamo mettere anche in scaletta appunto un pezzo dell'ultimo disco di Mark Ribot, ovvero Songs of Resistance 1942-2018, perché volevamo mettere un pezzo particolare per noi, ovvero Bella Ciao, cantata da appunto Tom Waits, che abbiamo visto ieri sera io e Olivia nel bellissimo, godibilissimo ultimo film dei fratelli Coen. I love you though you're different than me. You don't look like me. You don't talk like me. You don't. I love you though you're foreign to me and unknown to me. And there is no assuming. I love you cause you're wanting to be more of you, and nobody can never ever try to be a copy, a copy, a copy, a copy, a copy, a copy, a copy, a copy. E state ascoltando un falso storico. Diciamo che la finalizzazione di questa puntata è stata un po' faticosa e confusa. E infatti avremmo dovuto ascoltare un altro pezzo. Perché nella tracklist dell'album A Million and One di My Brother's Diamond, di cui stiamo parlando questa sera, Mete FM, doveva esserci Sway e dopo c'era Supernova, e invece stiamo ascoltando Supernova. Try to be a copy, a copy, a copy, a copy, a copy, a copy, a copy, a copy, a copy, a copy, a copy. Now we are imagining copy, copy. Però forse è stata una cosa inconscia, perché Million Pearls as Way, il pezzo che è dopo, su tutte e due lente. Io dentro di me avevo un po' criticato questa tracklist. Adesso inconsciamente l'ho rifatta a mio gusto. E invece questa Supernova non può essere un riferimento, non può non essere un riferimento a se stessa. è invece appunto un inno all'abbracciare le differenze, accogliere la differenza, soprattutto sul dance floor. Cioè, ti amo anche se sei diverso da me, non hai il mio aspetto, non parli come me. Ti amo anche se sei un estraneo, sconosciuto. Ho anche pensato che quest'album contiene un pezzo che si chiama Champagne, un pezzo che si chiama Supernova, ma gli Oasis non c'entrano niente. E io ti amo perché tu hai sempre voluto essere. Te stesso praticamente, perché no, non puoi mai essere, non hai mai cercato di essere una copia, una copia, una copia, una copia. E oltre a Sonlux, Sufjan, McAllister, c'è anche un nome che è molto molto spesso presente nei lavori di Shara, come Brothers Diamond e non, ovvero quello di David Michael Stith, ovvero DM Stith. C'è anche un duetto in All Things Will Unwind, Everything Is In Line, appunto tra DM Stith e Shara, tra l'altro il pezzo che contiene proprio le parole, il titolo All Things Will Unwind. Stiamo ascoltando Sawtooth dall'ultimo album pubblicato, Pigeon Art, nel 2016. E non me lo ricordo assolutamente, non so se Olivia se lo ricorda, il concerto di apertura di quello di Sufjan nel tour di The Age of Oz, che noi abbiamo visto proprio in piccionaia, filo a piombo sul palco a Ferrara sotto le stelle nel maggio 2011, era lui. Penso anche che proprio uno dei 4 EP di remix di pezzi di A Thousand Shucks Teeth, uno era curato da Sonlux e un altro, secondo me, mi pare appunto da DM Stith, che oltre all'attività di musicista, anche lui polistrumentista, ha un lavoro proprio da grafico, graphic designer, e per questo si è occupato delle immagini di diverse copertine, appunto di Thousand Shucks Teeth, ma anche di All Things Will Unwind, di My Brother's Diamond, stavo per dire My Bloody Valentine, e anche di altri dischi sempre per la Smatic Kitty. Perché appunto noi non ci pensiamo che, come insomma, può capitare ai nostri amici qui in Italia, non ci si vive tanto di musica. Quindi in genere la gente ha un altro lavoro, vero? ed eccola, Sway. I'm trembling like a flower after a storm, but I get on board, we press in tight, the engine glowing. We release the cord, the water takes us high. We sway, we sway in the moonlight on the shifting center line. Why could not stay? Sway. I could not stay. Ecco, forse questo qui è un pezzo che ricorda molto il passato, le precedenti pubblicazioni, un po' più sperimentale. I feel a hand holding me upright. Che danno proprio l'idea di una performance musicale ma anche teatrale, perlomeno il tipo di, non so, di strumentazione, di ritmo, mi suggerisce questo. And I know I'm holding on to you for dear life. We sway, sway in the moonlight. On the shifting center line, sway, sway in the moonlight. On the shifting center line, sway, moonlight. On the shifting center line. Breaking news. For the rainbow. Olivia scrive: concerto perso perché l'orario sul biglietto era quello dell'inizio di Sufiano e la spalla ha suonato prima li mortacci loro perché mi piaceva. Dobbiamo riempire gli spazi. Eravamo arrivati nella carriera al 2012, altre collaborazioni in pezzi di altri o come backing vocal. Voi per esempio il primo, un pezzo nel primo EP di S/S/S, altro progetto di Serengeti, Sufjan, Son Lux. Progetti vari, musica pop, musica alta, spesso con gli stessi musicisti. E infatti Shara stessa compone delle opere, dei pezzi orchestrali, classici, sperimentali, eccetera, a partire dal 2010, o lavori commissionati da enti, istituzioni culturali o per eventi come festival o rassegna, e spesso pubblicati, per esempio, alcuni sono pubblicati all'etichetta New Amsterdam Records, che per chi non lo sapesse è il primo nome della città di New York. L'ultima opera e composizione invece, You, Us, We, All, opera barocca eseguita ad Anversa nel 2013. E dopo il 2013 c'è il 2014. This is my hand, this is my wrist. Dicevo, prolificissima, un EP di 5 pezzi, Non More Than New, 12 pollici, che contiene un'ulteriore collaborazione con Son Lux, forse a quel punto è diventato un trio. Un EP che contiene anche una cosa curiosa, un pezzo nato come la sonorizzazione fatta da lei per The Ballonatic, in italiano Il Matto sul Pallone, di Buster Keaton del 23, e altri poi due pezzi provenienti da altri progetti dedicati ad altro, poi un po' deviati. Ma appunto a settembre 2014 esce il quarto album, This Is My Hand, e stiamo appunto ascoltando This Is My Hand. Ci era piaciuto molto, infatti nella puntata sui Decemberists erano appunto un mix di due pezzi, di questo che era il disco dell'anno prima. Avevamo suonato Pressure e Before the Words, e in questo caso abbiamo fatto un altro mix per perché esiste anche una versione francese di questo pezzo, Se si è ma men. Titolo Se si è ma men Ground Lift Remix, contenuto appunto nell'EP 12 pollici edizione limitata del 2015 dal titolo I Had Grown Wild. Un EP che contiene anche altri tre pezzi, collaborazione con altri musicisti per adattamenti di poesie di Yeats e Mallarmé. Ceci est ma forme, ceci est mon moule, ceci est mon âge, ceci est marche-pente, ceci est mon esprit, ceci est ma voix, ceci est mon cœur, ceci est mon choix, ceci est mon temps, ceci est mon souffle, ceci est ma droite, ceci est ma gauche, ceci est mon ombre, ceci est ma haine, ceci est ma ligne, ceci est mon doute, ma mélancolie, ma flamme, ma joie, mon but. Riguardo ai progetti alti, abbiamo omesso di dire, appunto, avevamo scritto la partecipazione anche a 5 performance dello spettacolo Homeland di Laurie Anderson come corista. Ma nel 2014 partecipa come voce soprano e anche autrice, 7 pezzi voce e un pezzo anche autrice, a River of Fundament di Matthew Barney, insieme a Jonathan Bepler, musicista e appunto collaboratore di lunga data di Matthew Barney. Questa opera folle, come sempre, Matthew Barney, River of Fundament, che unisce Norman Mailer, l'antico Egitto e il declino appunto dell'industria automobilistica americana. Un operatic experimental film di appena 330 minuti, interpretato tra gli altri da Maggie Gyllenhaal, Paul Giamatti, Ellen Burstyn e Barney stesso. E siamo tornati al penultimo pezzo di A Million and One, si chiama Mother. She did what she wanted, she said what she thought, got me in trouble for questioning God. Silence her motion, thought I'd be fine, leaving off my woman and leading with my mind. I came from my mother, then forgot my mother, so I go back to mother and I learn to love her. I came from ha fatto ciò che voleva, ha detto ciò che pensava. E mi sono messa nei guai per aver messo in discussione le sue decisioni. Vengo da mia madre, sono venuta da mia madre e poi ho dimenticato mia madre e quindi ritornerò a mia madre e imparerò ad amarla. She's a valley cracked open wide and the wind spun wild. Ecco, una cosa che avevo accennato, appunto, che questo ultimo disco esce per la Rhyme and Reason Records. Appunto, parlando di femmine, che è una etichetta indipendente a proprietà femminile di base in New Jersey, Amy Black e Anna Maria Scuderi, un roster, come si dice, di pochi artisti, 13, e credo che appunto non ci sia stata nessuna rottura con la Smatic Kitty, anzi forse sono diventate amiche in qualche modo e lei appunto ha deciso, come forma di empowerment, di incidere, pubblicare con questa etichetta, anche perché appunto il suo nome è il più grosso. Infatti, se aprite il sito della Rhyme and Reason Records, è la prima cosa che vedete. Poi continuando con la carriera, nel 2015, per rimanere dal lato dei progetti alti, Shara è appunto DM Steed e Padma Newsom, con cui Shara ha iniziato a studiare composizione a inizio del 2000, cantano nell'opera di musica classica di Sarah Kirkland Snyder, autrice di musica da camera, orchestrale e corale, che spesso annulla i confini tra musica classica e musica pop. L'opera si chiamava I Remembered, basata sulle poesie del poeta Nathaniel Bellows. E poi nel 2016, l'anno del divorzio, il cambio del nome in Nova. Divorzio è un evento comunque importante, soprattutto se appunto, come parole di Shara, è stata sposata gran parte della sua vita adulta, 19 anni, e doveva tornare Sufjan. Ok, The Mystery of Love, meravigliosa, Call Me By Your Name, nominata all'Oscar, la performance la sera degli Oscar con St. Vincent, Moses Sumney. Però quasi contemporaneamente, fine 2017, esce anche questo Tonya Harding in The Major, perché ci sono due versioni, ovvero in Fa maggiore. E poi appunto chissà se è stato ispirato al fatto che c'era anche un film, anch'esso candidato agli Oscar, dedicato appunto alla vicenda di Tonya Harding. E non è l'ultima pubblicazione di Sufiano, perché ha fatto le solite pezzi di per Natale, Man of Winter, che però è molto meno bella di questa. Siamo arrivate quasi alla fine di questa trasmissione, che è dedicata, non dimentichiamolo, a My Brother's Diamond. Ma nel 2016 ci sono state anche altre cose, insomma, oltre alle vicende personali, ovvero a prodotto musica per un documentario sul fiume Colorado di Murat Yuboglu, che aveva già curato la regia di diversi suoi video. Colorado, un film su West americano, di cui ieri appunto abbiamo visto molto nel film dei fratelli Coen, un tributo musicale alla terra e all'acqua, una cautionary tale, ovvero un racconto ammonitore, un monito sull'ambiente. E appunto My Brother's Diamond fornisce musica per questo documentario, in cui la musica svolge un ruolo predominante, sulla narrazione di Mark Rylance, invece attore anglosassone. My friend, well, this world is a bitch, girl. Don't end up in a ditch, girl. E finalmente, poi sarà passato insomma il 2017, insomma, a comporre, creare, a canalizzare nella musica tutte le emozioni della vita di Shara ed una carriera già abbastanza intensa. Il 23 novembre 2018 esce A Million and One. Abbiamo detto, anticipato il giorno prima dal video, che è quasi insomma la canzone manifesto, It's Me on the Dance Floor. È un album che secondo Pitchfork esplora le sensazioni tra l'estasi e la minaccia. White Noise, rumor bianco, e questo è il pezzo di chiusura per un album che, come additional producer in qualche pezzo, ho visto anche Casey Fubert, anche lui collaboratore di Sufiano e nonché cognato di James McAllister, proprio famiglia, proprio a livello musicale, a livello parentale. Fare questo ritmo così sembra appunto molta musica che ascoltavamo una decina d'anni fa, tipo quel pezzo di Prima Scream cantato da la fotomodella inglese, o anche detto in Vegas. Kate Moss. Ma come? Non parli delle recensioni? Allora, diciamo che rimane comunque un artista di nicchia. Quindi su Metascore sono 7 solo le recensioni, con un massimo di 72 su 100. Anche lo stesso Pitchfork ha dato un 7 dignitoso, Pop Matter 7, All Music, Under the Radar. Solo il Guardian scende a 6, anche Uncut 7. Abbiamo scritto un disco che esprime tante emozioni e che è stato anche ispirato a, appunto, a tanti artisti, appunto alla musica ascoltata alla radio. Proprio da Stevie Wonder a Patti Smith, o almeno così lei ha detto. Quindi il risultato ci è piaciuto, soprattutto per parlare anche di tutta la carriera di questa artista, My Brightest Diamond. Ciao da Claudia Mighty Mouth.